serata a tutti. Siamo inizia una nuova puntata di Entro Via Massima. Questa sera abbiamo ospiti, ma ospiti nel senso che cureranno l'intera puntata, anche perché, come si può ben sentire, il livello vocale non è dei migliori, il mio. E quindi lascio subito la parola ad Assud, che ci parlerà di vari conflitti ambientali. Questa sarà, diciamo, è la prima di una serie di collaborazioni che speriamo durino anche durante tutto l'anno, appunto con focus su conflitti ambientali. Quindi lascio la parola a Rita di Assud. Bene, ciao. Allora, io sono Rita di Assud. Intanto ci presentiamo. Assud è un'associazione che si occupa di conflitti ambientali. Noi facciamo accompagnamento alle comunità che sono impegnate in battaglie ambientali sui singoli territori attraverso una serie di strumenti. Intanto per conflitti ambientali intendiamo tutte quelle battaglie di resistenza, grandi o piccole, che si attuano, che sono messe in atto sui territori, dalle comunità territoriali contro grandi opere impattanti o contro disastri ambientali, per bonifiche e insomma situazioni di questo tipo. Quando parliamo di conflitti ambientali parliamo quindi innanzitutto di battaglie di democrazia. A questo proposito, la parte più importante in realtà che a noi piace sottolineare è quella dell'auto-organizzazione delle comunità territoriali, e in questo noi proviamo ad essere da supporto sia dal punto di vista comunicativo, nel senso che proviamo a dare risonanza a quello che loro fanno, a raccontare quello che accade sui territori. D'altra parte proviamo anche poi a dargli degli strumenti concreti, che siano legali, che siano di consulenze di qualsiasi tipo. L'altro versante invece di impegno della nostra associazione è invece più internazionale. Abbiamo un'amplissima rete di organizzazioni a livello mondiale con le quali collaboriamo, e intanto proprio in questo momento siamo impegnati nella promozione di una campagna mondiale che è stata lanciata nei giorni della COP di Bonn, e una campagna appunto contro i cambiamenti climatici che si chiama Climate Change in Me. A proposito di questa campagna, adesso noi vorremmo raccontare, magari Licia di Assud può appunto contestualizzarla un attimo e spiegare che stiamo facendo. Buonasera a tutti, io sono Licia, grazie Rita per l'introduzione. Allora, vi parlo brevemente di Climate Changing Me. Si tratta appunto di una campagna internazionale che mira a raccontare gli effetti concreti del climate change sulle vite dei singoli. Questa campagna nasce all'interno di un progetto a cui hanno partecipato diversi attivisti da molte parti del mondo, come Bulgaria, Ecuador, Nigeria e Italia. Durante un campo a cui abbiamo partecipato tutti insieme quest'estate, abbiamo ideato questa campagna per parlare appunto di come il cambiamento climatico sta impattando sulla vita di tutti noi in modo diverso. E per questo infatti che durante la campagna raccontiamo gli effetti che il cambiamento climatico sta avendo sia rispetto all'innalzamento delle temperature, rispetto allo scioglimento dei ghiacci, desertificazione, siccità, insomma tutte tematiche che interessano la vita dei cittadini del pianeta Terra. Questo perché? Perché crediamo che i governi nazionali e le istituzioni non stiano mettendo in campo alcuna soluzione coraggiosa. Basti vedere appunto quello che è successo a Bonn giusto la settimana scorsa, e quindi crediamo che sia compito dei cittadini partire dal basso e far sentire la propria voce per chiedere delle soluzioni che siano reali. Vi parlerà più tardi Agostino nel dettaglio di come i cittadini possono partecipare alla campagna. Quello che però mi preme dire è che stiamo cercando di portare avanti questa campagna in modo che sia accessibile più, quindi si svolge principalmente sui social con l'utilizzo di semplici infografiche che riportano però dei dati scientifici che sono importanti, ma sono facilmente condivisibili, e quindi speriamo che possano essere diffusi il più possibile. Ci stiamo servendo di strumenti come quali il video per raccontare appunto come il cambiamento climatico sta avendo degli effetti sulla vita di tutti noi, e lascio la parola ad Agostino per quanto riguarda i diversi canali che stiamo utilizzando. Grazie Licia, buonasera, sono Agostino, sempre di Assud, e vi racconterò come poter partecipare alla campagna Climate Change in Me. Ci sono vari modi di partecipare. Il primo è aderire alla campagna. Potete mandarci la vostra testimonianza su come i cambiamenti climatici stanno toccando la vostra vita in tre forme: scritta, mandando agli indirizzi mail che trovate sul sito www.climatechangeme.it o sulla pagina Facebook. Può essere una testimonianza scritta di massimo 300 caratteri, oppure potete mandarci un video di massimo 45 secondi raccontandoci la vostra storia, altrimenti potete farvi una foto con gli hashtag della campagna, tra cui global warming, siccità, innalzamento del livello del mare, water scarcity, sicurezza alimentare, migrazioni forzate o eventi estremi. Ne potete trovare altri sempre sul sito della campagna. Un altro modo per partecipare è sicuramente di sostenerci, sostenere gli sforzi che stiamo facendo attraverso il crowdfunding che abbiamo deciso di lanciare oggi. Abbiamo deciso di sperimentare questo nuovo modo di finanziamento, autofinanziamento virtuale, e abbiamo proprio oggi lanciato la campagna di crowdfunding che trovate sempre sul sito di Facebook della campagna, sul sito di Facebook di Assud, oppure sulla pagina web della campagna, che ricordo è www.climatechangeme.org. E ci sono un sacco di premi disponibili. Per... Il premio Codiglione. Ci siamo sforzati per trovare delle forme di ringraziare i nostri sostenitori, per cui andiamo da foto d'autore a libri sui conflitti ambientali, a corsi di formazione o progettazione, o addirittura per livelli più grandi di donazione vi portiamo con noi alla prossima COP in Polonia. Pensa tu che culo. Che insomma a qualcuno potrebbe piacere. L'ultimo modo per sostenerci è definitivamente di seguire la campagna. Ci saranno nuovi premi per il crowdfunding, ci saranno nuove testimonianze e soprattutto stiamo organizzando una serie di eventi sia per promuovere la campagna sia per raccogliere le testimonianze, per cui se volete partecipare a uno dei nostri eventi tematici sui cambiamenti climatici, volete lasciarci la vostra testimonianza, volete contribuire in una o l'altra forma che vi ho descritto, seguiteci e venite ai nostri eventi. Grazie. Va bene, direi che diciamo che facciamo un piccolo intervallo musicale e ci risentiamo tra poco in voce. E questo era Black Knight dei Deep Purple. Siamo di nuovo in voce e ripasso la parola ad Assud. Bene, allora io in questo momento tra un po' inizieremo il collegamento con i Notap, perché dopo la parte internazionale ci piace affrontare invece un po' di conflitti ambientali tutti di casa nostra, e tra i più grossi attivi in questo momento e soprattutto di quei tra quelli di cui si parla meno e soprattutto si dice di meno, c'è proprio quello che sta riguardando Melendugno e il Salento tutto. A questo proposito io chiamerei Gianluca Maggiore e gli chiederei se è in linea intanto. Gianluca? Sì, pronto? Ciao. Buonasera. Ciao. Senti, allora Gianluca, intanto ci puoi contestualizzare un attimo cosa sta succedendo a Melendugno, cioè dall'inizio, qual è il tema, cosa sta succedendo da voi in Salento? Beh, c'è l'ultimo step, l'evoluzione. Cioè per anni e anni e anni sono venuti con i cucchiaini di zucchero per far vedere che sono buoni e belli, e in quest'ultimo step invece c'è stata la militarizzazione. Saltano tutte le regole, non ce ne frega niente della democrazia, non ce ne frega niente della Costituzione, noi lo dobbiamo fare, ci abbiamo soldi, voglio e faccio. E questo è quello che vediamo con i nostri occhi questi giorni. In pratica hanno espropriato, che forse è un termine troppo legale, direi proprio rubato terreni e case tutto intorno al cantiere per fare una zona rossa, una zona cuscinetto. Giustamente la popolazione non ci sta. Ho capito. Senti, ma tu quando dici espropriando intendi proprio cioè nel senso, in questo momento come si fa a vivere nei territori che sono stati sequestrati materialmente? E teoricamente per entrare nei territori che sono sequestrati è proprio la parola giusta, che sono entrati in possesso della polizia, in realtà di TAP, bisognerebbe prendere un pass rilasciato dalla questura, a discrezione della questura. In realtà anche chi ha il pass ha grossissime difficoltà per entrare nel proprio terreno e altre persone nelle proprie case, perché all'interno della zona rossa ci sono delle case, addirittura delle case vacanze, complessi di una ventina di appartamenti e cose del genere. Quindi cioè, se io per esempio posseggo una casa all'interno della zona rossa e sono dotata di pass, posso rientrare ma con difficoltà a casa mia, però se qualcuno vuole venirmi a trovare come fa? No, se qualcuno deve venirti a trovare non può venirti a trovare. E questa cosa come la stanno giustificando? Non la giustificano, semplicemente dicono che la zona è stata assegnata alla polizia per questioni di sicurezza. Quindi praticamente in questo momento parliamo di una zona assegnata alla polizia di Stato? Sì, alle forze di polizia per una questione di sicurezza. In realtà non è nemmeno detto che tu con il tuo pass riesci a entrare a casa tua, per un motivo molto semplice, perché se in quella zona dove tu stai la strada è bloccata da mezzi che stanno spostando gessi perché stanno facendo una costruzione, che stanno lavorando, non ti fanno entrare. Quindi praticamente ci stiamo dicendo che per inseriare una grande opera su un territorio che è di tutti, una grande opera privata ovviamente, in questo momento c'è un presidio militare, quindi un presidio assicurato dallo Stato, che impedisce anche ai cittadini di quel territorio di vivere cioè casa propria. Esattamente. Ho capito. Ti dirò di più, io sono fra quelli che sono stati sequestrati per 9 ore, la notte fra il 12 e esatto, io volevo arrivare a novembre. Questo racconto, ci racconti cosa è successo per chi non lo sapesse? Beh, in pratica noi eravamo in presidio, ci hanno semplicemente circondato e non facevano più entrare nessuno e non facevano più nemmeno uscire nessuno. Quindi in pratica chi si trovava all'interno del presidio è rimasto sequestrato per 9 ore, finché uno, i mezzi che avevano circondato la zona, e parlo proprio di mezzi di lavoro, non si sono spostati, perché praticamente ci hanno chiuso tutte le strade, non riuscivamo a spostarci con le macchine, niente. E due, si è comunque dovuti passare dei controlli, dei checkpoint. Per avere un'idea, alcuni attivisti sono usciti perché quando sono arrivati al checkpoint non li volevano far uscire, hanno chiamato il 112 e hanno preteso spiegazioni, e l'operatore del 112 si è fatto passare il loro lo definiscono comandante di piazza, diciamo così, il maresciallo che stava in quel momento nella zona, e hanno praticamente hanno concordato di far passare le persone, perché sennò non si poteva uscire. Ho capito. Gianluca, senti, io però ti devo chiedere di spiegare meglio di cosa stiamo parlando in generale, nel senso, io e te ne parliamo perché bene o male sappiamo di che stiamo parlando, sappiamo cos'è TAP, sappiamo la storia degli ultimi mesi, quest'estate siamo stati al presidio insieme, proviamo a raccontare il conflitto vostro a chi, non dico non ne sa niente, però sicuramente non è informato e non è all'interno delle nostre reti. Sì, allora diciamo mettiamo le coordinate contestualizziamo sul discorso che facevo prima. Allora stiamo parlando di una zona, località San Basilio, a 600 metri dal mare, in cui c'è, è previsto, ma ancora non c'è, un cantiere di 2,6 ettari per costruire il microtunnel che dovrebbe bypassare la pineta, il cordone dunale, la spiaggia e le praterie di Posidonia che si trovano in mare di fronte a questa spiaggia bellissima di San Basilio. Questo cantiere di 2,6 ettari è propedeutico alla costruzione di questo microtunnel di 1540 metri, che è praticamente un decimo della porzione a terra del tratto italiano del gasdotto TAP. Quindi per costruire un decimo del tratto italiano del gasdotto TAP, che comunque sono solamente 8 chilometri, hanno spostato l'esercito, essenzialmente esercito per modo di dire, diciamo così, tutte queste forze dell'ordine che dalle nostre fonti sono più o meno 650 unità, esclusivamente praticamente per coprire effettivamente la mancanza di permessi. Il problema reale adesso della TAP è che loro non hanno né un progetto esecutivo né una linea di finanziamento per questo progetto. Però siccome hanno la necessità di far vedere che il progetto è cominciato, hanno preferito chiudere tutta l'area. Perché hanno la necessità di far vedere che è cominciato il progetto, Gianluca? Perché loro praticamente avrebbero dovuto cominciare questi lavori entro il 16 di maggio del 2016, pena la scadenza della TPA, cioè che prevede l'esenzione accesso diretto e l'esenzione proprietaria, che sono diciamo così le esenzioni al terzo pacchetto energia che li rendono finanziabili dalla BEI e dalla BES, dalle banche europee. Quindi significa per loro non cominciare il cantiere o non finirlo in una certa data, significa perdere tutti i vantaggi finanziari pubblici che vengono tolti tramite queste banche dalle nostre tasche. Gianluca? Sì, ti sento benissimo. No, ok, perfetto. Bene, allora questa parte qua l'abbiamo più o meno chiarita. E quest'estate noi però ci siamo visti, cioè quest'estate in realtà la scorsa primavera, sul cantiere, perché quando voi avete in realtà messo in piedi il presidio permanente a Melendugno, quello di cui si è parlato in tutta Italia, la cosa che più si è capita in realtà nel resto del paese, era che c'era da difendere gli ulivi del Salento. Ci puoi raccontare la vicenda terribile degli ulivi che si accompagna a questa, ma che in realtà poi è anche un po' più ampia? Assolutamente, il problema degli ulivi era marginale. È chiaro che noi agiamo localmente, ma pensiamo globalmente. Quei 211 ulivi, che sono una piccola parte dei 10.500 previsti in espianto per arrivare a Mesagne, dove c'è la rete nazionale gasdotti, in realtà sono stati utilizzati dai media tradizionali per indicarci come gli ambientalisti del no e cose del genere, il gas serve, questi stanno difendendo 211 ulivi e cose del genere. In realtà la nostra battaglia ha radici molto più profonde, parte nel 2011, è una battaglia di sistema. Qua si stanno finanziando opere che non hanno nessun senso, che sono completamente inutili, che sono a carico delle comunità locali e degli stati proponenti, quindi di chiunque paghi le tasse, sono a carico delle popolazioni, ma soprattutto sono finalizzate a un sistema speculativo che niente ha a che fare con la pubblica utilità dell'opera. Ok, allora più o meno quindi ora ci siamo capiti, abbiamo contestualizzato. Torniamo un attimo a quello che sta succedendo. Anche Agostino, sempre di Assud, voleva farti un paio di domande rispetto proprio agli ultimissimi sviluppi. Ciao Gianluca. Buonasera. Sì, ho seguito un po' la storia, è veramente agghiacciante. Però c'è stata una vicenda che mi ha particolarmente colpito, che è quella del DASPO. Praticamente la prima volta in Italia che la DASPO, la misura di allontanamento che si applicava agli stadi, viene utilizzata in un contesto di conflitti ambientali. Ci puoi, per un ragazzo lì che stava resistendo, ci puoi raccontare qualcosa su questo? Una a Riccardo e una a Francesco, che sono due ragazzi fantastici. Abbiamo dei ragazzi giovanissimi, Riccardo c'ha 19 anni, che praticamente si dedicano anima e cuore a una battaglia di cui hanno compreso perfettamente le finalità e i motivi, e giustamente queste persone danno fastidio, danno molto fastidio. Io posso dirvi esattamente che cosa è successo e perché loro hanno la DASPO. In pratica, il 24 di ottobre questi due ragazzi, Francesco e Riccardo, si sono messi con le mani alzate, con i loro corpi, a impedire che gli ingegneri della TAP su una macchina entrassero e uscissero liberamente dal cantiere senza fare nessuna violenza. Bene, sono stati denunciati per violenza privata perché si sono opposti pacificamente con il loro corpo. Probabilmente anche Gandhi sarebbe stato denunciato per violenza privata con le leggi italiane. Sulla base di questa denuncia hanno ricevuto una DASPO di 3 anni per i territori di Melendugno. Questo è quello che è successo. E questo dà il senso di come dei personaggi in carriera, il prefetto e il questore, perché altro non sono che se non dei personaggi in ricerca di visibilità per andare avanti in carriera, stanno praticamente completamente calpestando i diritti della popolazione, tra cui quelli a manifestare. Sì, mi sembra assurdo effettivamente, sia la comparazione dei due attivisti ambientali, due ragazzi poi come ci hai detto te, con i partecipanti degli scontri dello stadio, e sia l'allontanamento di due ragazzi dai loro territori. Ma noi tra l'altro l'8 dicembre, rispondendo a una chiamata nazionale del movimento NOTAV, che diciamo così che è di militarizzazione se ne intende, stiamo organizzando un corteo a Lecce in cui il punto cruciale, proprio il tema, è la militarizzazione e come i diritti umani vengono calpestati. Vabbè, mi pare un'ottima notizia, Francesco... quindi stiamo lanciando ufficialmente l'8 dicembre a Lecce? Sì, assolutamente. Mi sembra un'ottima notizia. Lo possiamo lanciare tranquillamente. Vi aspettiamo tutti a Lecce l'8 dicembre alle ore 15 a Porta Napoli per una manifestazione che sarà proprio per parlare non di una questione ambientale, ma di come i diritti delle persone, come la Costituzione, come i diritti primari vengano calpestati esclusivamente a uso e consumo di un sistema speculativo. Gianluca, allora io ti faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo, perché noi abbiamo capito bene o male le fasi del conflitto, ci stiamo dando appuntamento all'8 dicembre e noi ci saremo senza alcun dubbio e invitiamo chiaramente tutte e tutti ad esserci, ma ci puoi raccontare un attimo brevemente quanto poi la resistenza popolare degli abitanti del territorio abbia influito rispetto alla crescita di quello che è attualmente il movimento NOTAP? Ma io vengo da un'esperienza fantastica che è la base del movimento NOTAP, che è il comitato, che per 6 anni, non essendoci il cantiere, ha portato avanti una battaglia lunga e dura sulle vie legali, e questa battaglia è stata vinta, perché essenzialmente TAP ha dato semplicemente dei colpi di mano a colpi di decreto. Ci viene da pensare che chi scrive i decreti sia organico a TAP, non so se mi spiego. Quindi c'è stata una battaglia legale, amministrativa e via dicendo, che è stata portata avanti in una maniera inoppugnabile e che è stata semplicemente cancellata con un colpo di spugna da alcuni decreti fatti da personaggi che non so come definire, tipo Lopresti, che è lo stesso che telefonava con Claudio De Vincenti dicendo, scambiandosi parole sulla centrale di Vado Ligure, dicendoci facciamo una legge, una porcata che almeno sia leggibile per riavviarla, la centrale a carbone, tanto per avere idea. Questi sono i personaggi che scrivono decreti e che materialmente calpestano poi le popolazioni, e anche chi combatte nella migliore delle prospettive della legalità. Usciti fuori da questa esperienza, che è stata anche fortemente informativa per tutti i ragazzi che hanno seguito questa battaglia, anche se non in maniera fattiva, perché non c'era un cantiere, si è avuta una risposta di popolo incredibile. Noi ci siamo trovati alle 4 di mattina, alle 4 e mezzo di mattina, in 500 persone sotto la pioggia ad aspettare i mezzi. Siamo qui a difendere non solo il territorio, non siamo qui a difendere 211 alberi di olivi, ma siamo stati ad aspettare che il destino di questa terra non fosse consegnato alla speculazione e non fosse consegnato all'ingiustizia. Perfetto, Gianluca, allora grazie tante. Noi chiaramente vi esprimo la massima solidarietà, ma la massima complicità. Ci vediamo sicuramente l'8 dicembre a Lecce, sicuramente invitiamo tutte e tutti e ci sentiamo prestissimo. Grazie. Vi aspettiamo. Ciao. Grazie Gianluca, buona fortuna. E allora facciamo un'ultima pausa musicale e ci risentiamo tra poco. Si prete sta bene tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara chi magna di più. Gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù, gli interessa chi pane non ha, gli interessa chi sta in schiavitù. Cristo Gesù, ne farei de nottate e nottate, fino quasi a non farcela più. Chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardilà, chi mistica mastica senza scoppiare, chi mistica traffica con l'ardilà. Lavora lo sa che vuol di, la mattina quando è lunedì, sembra inverno ma inverno non è, mai la vita di chi è come te. E si prete sta bene tu sta, regge il gioco di sua santità, fanno mostra di buona virtù, fanno a gara. Cristo Gesù, ne farei de nottate e nottate, fino quasi a non farcela più. mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica e mistica, chi mistica, mastica senza scoppiare, chi mistica, traffica con l'ardila, chi mistica, mastica senza scoppiare, chi mistica, traffica con l'ardila. E questa era Chi mistica mastica del Muro del Canto, di nuovo qui, Entropia Massima, di nuovo con Assud, e di nuovo passiamo la parola. Allora, noi abbiamo appena chiuso la telefonata con Gianluca Maggiore dei NoTap e passiamo da un conflitto che sì, ci riguarda tutti, ma che è geograficamente un po' lontano, a uno che invece abbiamo precisamente dietro l'angolo. Stiamo parlando di Colleferro, dei due inceneritori del progetto di revamping dei due inceneritori di Colleferro, e a questo proposito noi siamo in collegamento in questo momento con Alessandro Coltré dell'Unione Giovani Indipendenti e della Rete Rifiutiamoli, che da circa una settimana è in presidio permanente a Colleferro Scalo contro il revamping dei due inceneritori. Alessandro, ci sei? Sì, buonasera. Ciao. Senti Ale, ci puoi raccontare in maniera molto ampia cosa è accaduto a Colleferro fino ad ora? Cioè, parliamone come se non ne avessimo mai parlato. Raccontaci delle vicende legate alla tua città. Sì, va bene. Io ecco, vi parlo qui da Colleferro e sto proprio qui in un presidio permanente ormai da 10 giorni con tantissime persone. Siamo a Colleferro, quindi a pochi chilometri da Roma, e qui all'ombra del Colosseo c'è un'intera valle che lotta con diversi tipi di inquinamento che vanno da una contaminazione ambientale fino ad arrivare alla lotta contro degli impianti di rifiuti che servono per lo più alla città, alla capitale. E Colleferro è una città industriale dove la fabbrica è nata prima della città, quindi è una città di fondazione, nata negli anni 30, e questa città si è sviluppata attorno a una fabbrica e ha sempre visto l'intero territorio essere a servizio delle fabbriche, delle grandi industrie come appunto la BPD, la Bombrini Paroli Delfino, una fabbrica di armi, e poi delle grandi industrie della chimica come la Caffaro. La Caffaro e altre industrie che qui hanno lasciato il segno con un'eredità molto pesante, fatta di ovviamente fabbriche dismesse, ma anche di rifiuti sotterrati che hanno inquinato tutto il territorio e hanno lasciato nel sangue delle persone dei derivati del lindano che non smaltiranno mai se non con il latte materno, hanno avvelenato la terra e i prodotti della terra e i contadini che la lavoravano. E dopo l'economia, le grandi fabbriche che se ne sono andate, l'economia della monnezza ha sostituito questo sistema e hanno impiantato, visto che era già un territorio a servizio, gli impianti per il trattamento dei rifiuti che, come dicevo, servono per lo più a Roma. E noi siamo qui in presidio da una settimana ormai perché ci troviamo a combattere con gli inceneritori che sono stati costruiti 20 anni fa e dove in questo quartiere appunto partirono delle proteste perché questo quartiere, che è un po' adesso è la periferia di Colleferro, che è appunto Colleferro Scalo, si trovò a combattere contro queste due ciminiere, contro due inceneritori. Sono due inceneritori che bruciano CDR proveniente da Roma e da altre regioni italiane. E siamo qui perché da diverso tempo gli inceneritori sono fermi per problemi tecnici. Però c'è in corso un progetto di rivalutazione, diciamo, di queste due ciminiere attraverso il revamping, ovvero l'ammodernamento degli inceneritori. Un ammodernamento deciso ovviamente dalla politica, da diversi tipi di politica. Come a Sud sa, uno dei decreti che un po' sta uccidendo tutti i territori è il decreto Sblocca Italia, che vuole aumentare e comunque fare del la strategia dell'incenerimento, il cuore della strategia energetica e dello smaltimento. E Colleferro sta in questa logica e si trova anche in un'altra posizione, in una posizione di svantaggio, in una posizione in cui i cittadini sono considerati di serie B rispetto a quelli di Roma, e quindi viene utilizzato come la discarica della capitale dove poter bruciare rifiuti. Perché tu dici che i cittadini sono considerati di serie B? In questo momento qual è la situazione? Aspetta, qual è in questo momento la situazione anche sanitaria a Colleferro, la situazione clinica? Raccontaci quali sono poi le conseguenze materiali di queste politiche di gestione dei rifiuti e di tutto quello che è successo prima. Sono dei sistematici schiaffi in faccia che prende questa popolazione, e a dirlo ovviamente non sono gli ambientalisti, ma sono rapporti epidemiologici. C'è un rapporto, l'ERAS, che è un rapporto del DEP, che è il Dipartimento Epidemiologico del Lazio, che sancisce come qui a Colleferro e nei paesi limitrofi ci si ammali di più rispetto alle altre città della regione Lazio, e questo è correlato proprio allo smaltimento dei rifiuti. Ci si ammala di più e ci si ricovera di più per malattie cardiovascolari, per malattie polmonari e quant'altro, e questo è sancito nel rapporto ERAS, pagina 210 nelle conclusioni. Si dice che da quando sono stati attivati gli inceneritori c'è stato un aumento dei ricoveri e un aumento dell'inquinamento di fondo per tutta la popolazione, e questo è soltanto uno. Poi ci sono altri, c'è il SIGRIA, che è lo studio sulle asma infantili, che dice che Colleferro i bambini si ammalano di più di asma, soffrono più di asma di più rispetto a Roma, a Torino, che sono città molto molto più grandi di Colleferro. E l'ultimo rapporto dell'ARPA sulla qualità dell'aria mette Colleferro e altri comuni vicini come Artena in fascia 1, che è la fascia di Roma, quindi appunto parliamo delle grandi metropoli. Questa è la situazione, quindi è un quadro in cui, come dicevo, la popolazione la definivo di serie B perché è sempre stata vista come una popolazione sacrificabile, perché proprio visto che c'è questa ombra ingombrante di Roma, e comunque essendo un territorio marginale è difficile anche diciamo raccontarlo e cercare di lottare appunto con una politica molto romanocentrica che considera Scusami se ti interrompo, appunto volevo inserirmi un attimo in questo discorso. Ti volevo chiedere, rispetto invece alla politica locale, all'amministrazione locale, come la state vivendo? Voi come UGGI, com'è la relazione con il movimento Rifiutamoli? Sì, allora col movimento Rifiutamoli, che dicevo è qui in presidio da 10 giorni per evitare il passaggio dei camion diretti verso gli inceneritori, diciamo che a fianco a noi abbiamo l'ufficio del sindaco, che si è trasferito in un piccolo stabile qui vicino a Colleferro Scalo, e simbolicamente ha deciso di trasferire il suo ufficio sotto gli inceneritori per protestare contro il rilancio dei due impianti. Quindi la politica locale è assolutamente per la difesa del territorio, questo lo dicono e lo registrano i fatti. Oltre a questo, il comune ha fatto un'ordinanza che vieta il passaggio dei mezzi pesanti, e questo l'ha fatto comunque come metodo per cercare di fermare o comunque di arginare le polveri sottili, e quindi ovviamente anche i camion che passano per portare il materiale. E in genere, al di là di questo, c'è un'azione politica molto forte del comune e dell'amministrazione guidata da Pierluigi Sanna, e non solo, perché noi abbiamo fatto un corteo lo scorso 18 novembre e c'erano con noi più di 10 sindaci, quindi comunque c'è una risposta del territorio ma anche delle istituzioni. E l'altra cosa, la valenza sociale di questo presidio, che appunto vede l'istituzione vicina e comunque solidale, ma anche la trasversalità di questo presidio, perché qui c'è molto ricambio tutti i giorni, e non solo degli attivisti ma proprio della popolazione. Qua passano persone che portano da mangiare, che restano qui, che partecipano alle iniziative, diverse comunità religiose sono qui, dai valdesi alla comunità islamica al mondo cattolico, quindi sicuro è un grande processo di partecipazione, è un grande esperimento anche di partecipazione dal basso, di scelte fatte tutti insieme. Poi insomma io ringrazio anche a Sud perché ha potuto constatare quello che dico in prima persona. Sì. Presidiando con noi la prima abbiamo apprezzato notte. Molto sia le pizze dei cittadini sia anche il tè della comunità islamica, però adesso ti dobbiamo proprio salutare Ale perché dobbiamo chiudere la trasmissione. Noi diamo chiaramente il riferimento della rete Rifiutiamoli e dell'Unione Giovani Indipendenti di Colleferro per chiunque si voglia informare, c'è un presidio permanente a Colleferro Scalo. Noi chiudiamo questa prima bellissima esperienza di Assud a Radio Onda Rossa e salutiamo tutti. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. E allora ringraziamo Assud per questa prima trasmissione e questa puntata di Entropia Massima si chiude qui. Ricordiamo che la radio non campa d'aria, quindi se volete collaborare, sostenerla in qualsiasi maniera vi do qualche suggerimento. Ad esempio potete sottoscrivere sul conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via di Volsce 56, 00185 Roma. Ovviamente potete passare a trovarci e potete seguire tutto quello che succede sul sito ondarossa.info, email ondarossa@ondarossa.info, e è sempre attiva la linea telefonica per partecipare, per intervenire alle varie trasmissioni sul 06 49 17 50. Si chiude qui quindi questa puntata di Entropia Massima e ci sentiamo lunedì prossimo alle 8 e un quarto. Alle 8, scusate, alle 8, siamo precisi. A presto.